La politica entra di straforo al Festival Letteratura di Mantova e lo fa con un premio Nobel. La scrittrice afroamericana Toni Morrison, premiata con il massimo riconoscimento per la letteratura nel 1993. Quando è stato eletto Obama, ha detto la Morrison, si pensava fossero finiti certi pregiudizi, ma il passato continua a ripresentarsi. C'è una grande mancanza di rispetto, soprattutto da parte della destra, per l'attuale presidente americano. Per la scrittrice, le questioni razziali non sono una cosa superata. E infatti, da una parte annuncia che il prossimo romanzo sarà tutto incentrato sulla razza e dall'altra è venuta qui al Festival Letteratura, che le dedica una retrospettiva, per presentare il suo ultimo libro, nel quale tornano i fantasmi del razzismo. Si intitola A casa, pubblicato in Italia da Frassinelli, e racconta la storia di un giovane che torna negli Stati Uniti dopo la guerra di Corea e trova una patria sempre più profondamente razzista. I am fascinated by the past. Sono affascinata dal passato, soprattutto quello che riguarda gli Stati Uniti, spiega Toni Morrison, ormai 81enne, costretta alla sedia a rotelle. Mi interessa andare indietro nel tempo per conoscere le cose cancellate dalla storia e capire dov'è la verità. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mantova.